Emetteva un regolare scontrino fiscale, ma la sua partita IVA era chiusa da più di un anno e l'ultima dichiarazione dei redditi risaliva al 2005. È solo uno dei 56 casi di fiorai irregolari scoperti dall'Agenzia delle Entrate in Emilia-Romagna con l'operazione Crisantemo, condotta il 1° di novembre su 231 fiorai durante i giorni dedicati alla commemorazione dei defunti. Il fioraio bolognese emetteva scontrini apparentemente regolari, utilizzando una partita IVA chiusa nel febbraio del 2010. In quell'occasione la buona notizia era stata che, con alcune vistose eccezioni come quella appena raccontata, il 75% degli esercizi controllati era poi risultato in regola. Chissà se in occasione del prossimo San Valentino si passerà dall'operazione Crisantemo all'operazione Rose Rosse per verificare se davvero, come dichiarano in media, i fiorai guadagnano poco più di 12.000 euro lordi l'anno, così come denunciano nelle loro dichiarazioni dei redditi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.